Capitolo 58. Al tempo in cui Mr. Vincey espresse quel presentimento su Rosamond, questa non aveva mai avuto l'idea che sarebbe stata obbligata a ricorrere a quel genere di appello che egli prevedeva. Finora non aveva avuto preoccupazioni sui metodi di reperire fondi, neppure la sua vita domestica fosse stata dispendiosa oltre che densa di avvenimenti. Il bambino era nato prematuro e tutte le vestine e le cuffie ricamate dovettero venir riposte nell'oscurità. Questa disgrazia fu attribuita interamente al fatto che aveva insistito a voler uscire a cavallo un giorno in cui il marito aveva desiderato che non lo facesse, ma non si pensi che si fosse mostrata adirata in quell'occasione o che gli dicesse maleducatamente che avrebbe fatto come le pareva. Ciò che la indusse in modo particolare a sentire il desiderio di andare a cavallo fu una visita da parte del capitano Lydgate, terzo figlio del baronetto, il quale, mi duole dirlo, era detestato dal nostro Tertius in quanto da Merino Vanesio, che si faceva la scriminatura dalla fronte alla nuca in modo ignobile, non imitato da Tertius, e perché mostrava un'ignorante sicurezza di sapere la cosa giusta su ogni argomento. Lydgate, in cuor suo, malediceva la propria follia per essersi tirato addosso questa visita, acconsentendo ad andare dallo zio per il viaggio di nozze, e si rese piuttosto sgradito a Rosamond per averglielo detto a quattro occhi. Infatti, per Rosamond, questa visita fu una fonte di esultanza senza precedenti, ma graziosamente celata. Era così intensamente consapevole di alloggiare in casa propria un cugino, figlio di un baronetto, che immaginava che la conoscenza di ciò che sottintendeva tale presenza fosse diffusa in tutte le menti altrui. E quando presentava il capitano Lydgate ai suoi ospiti, aveva la tranquilla sensazione che il suo rango gli penetrasse come se fosse stato un odore. Quella soddisfazione per il momento bastò a dissipare qualche delusione per essere sposata a un medico, anche se di buona famiglia. Ora sembrava che il matrimonio la facesse fluttuare, visibilmente oltre che idealmente al di sopra del livello di Middlemarch, e il futuro si illuminò di lettere e visite da e per Quellingham, e di conseguenza della vaga prospettiva di un avanzamento per Tertius. Soprattutto perché probabilmente dietro il suggerimento del capitano, sua sorella sposata, Mrs. Mangan, era venuta con la sua domestica e si era trattenuta per 2 notti di ritorno da Londra. Per questo valeva chiaramente la pena che Rosamond curasse la propria musica e scegliesse attentamente i pizzi. Quanto al capitano Lydgate, la sua fronte bassa, il suo naso aquilino storto da un lato, il suo eloquio piuttosto noioso, sarebbero stati uno svantaggio in qualsiasi giovane gentiluomo che non avesse un portamento militare e dei baffi che gli conferivano quel certo stile per cui qualche testa bionda graziosa come un fiore va pazza. Egli aveva per di più quella sorta di elevata educazione che consiste nell'essere esente dalle meschine preoccupazioni della raffinatezza borghese ed era un grande giudice in fatto di fascino femminile. Rosamond ora gioiva della sua ammirazione persino più di quanto aveva fatto a Quellingham ed egli trovò facile trascorrere varie ore del giorno a corteggiarla. La visita, tutto sommato, fu uno degli spassi più piacevoli che gli fossero mai capitati, tanto più forse perché sospettava che il suo strano cugino Tertius desiderasse che se ne andasse, per quanto Lydgate, il quale avrebbe preferito morire, metaforicamente parlando, piuttosto che peccare in educata ospitalità, soffocasse la propria antipatia e facesse solo finta in generale di non sentire quanto diceva il galante ufficiale, affidando a Rosamond il compito di rispondergli. Infatti egli non era per nulla un marito geloso e preferiva lasciare solo con la moglie un giovane gentiluomo sciocco piuttosto che fargli compagnia. Vorrei che cena parlasse di più col capitano Tertius, disse Rosamond una sera in cui l'importante ospite si era recato a Longford a trovare alcuni amici ufficiali che vi erano di stanza. Davvero hai un aspetto così assente delle volte? Invece di guardare lui sembra che attraversi la testa con gli occhi per guardare qualcosa dietro di essa. Mia cara Rosy, non ti aspetterai che io parli molto con un somaro vanitoso come quello, spero, disse Lydgate brusco. Se si rompesse la testa, potrei guardarla con interesse, non prima. Non posso concepire il motivo per cui debba parlare di tuo cugino con aria così sprezzante, disse Rosamond, le dita che si muovevano dietro il proprio lavoro mentre parlava, con una mite serietà in cui c'era un pizzico di sdegno. Chiedi a Ladislav se non pensa che il tuo capitano sia il più grande rompiscatole che abbia mai incontrato. Ladislav ha quasi abbandonato la casa da quando lui è arrivato. Rosamond pensò di sapere perfettamente perché Mr. Ladislav era antipatico al capitano. Era geloso e a lei faceva piacere che fosse geloso. È impossibile dire cosa va genio alle persone eccentriche, rispose, ma secondo me il capitano Lydgate è un perfetto gentiluomo. Io penso che, per rispetto a Sir Ludwin, non dovresti trattarlo con disinteresse. No, cara, abbiamo fatto dei pranzi per lui e lui entra ed esce come gli pare. Non ha bisogno di me. Eppure, quando è nella stanza potresti prestargli maggiore attenzione. Non sarà una fenice di intelligenza, secondo il tuo modo di pensare. La sua professione è diversa. Ma ci troveresti tanto da guadagnare a parlare un po' dei suoi argomenti. Penso che la sua conversazione sia perfettamente gradevole ed è tutto fuorché un uomo privo di principi. Il fatto è che vorresti che io fossi un poco più simile a lui, disse Lydgate in una sorta di mormorio rassegnato, con un sorriso non esattamente tenero e certo non allegro. Rosamond tacque e non sorrise di nuovo, ma le belle curve del suo volto avevano un aspetto assai tenero, pur senza sorridere. Quelle parole di Lydgate furono come una triste pietra miliare che segnava fino a che punto si era allontanato dalla terra sognata di un tempo, in cui Rosamond Vincy appariva come quel perfetto esemplare di femminilità che avrebbe adorato la mente del marito al modo di una sirena raffinata che usa pettine e specchio e canta la propria canzone solo per lo svago dell'adorata saggezza del suo innamorato. Egli aveva cominciato a distinguere fra quell'adorazione immaginata e l'attrazione verso il talento di un uomo, perché questo gli conferisca prestigio ed è come il distintivo di un ordine all'occhiello o un onorevole di fronte al nome. Si sarebbe potuto supporre che anche Rosamond avesse fatto molta strada dal momento in cui aveva trovato la conversazione futile di Mr. Ned Plymdale assolutamente tediosa, ma per la maggior parte dei mortali c'è una stupidità che è insopportabile, una stupidità che è del tutto accettabile, altrimenti in effetti cosa ne sarebbe dei vincoli sociali? La stupidità del capitano Lydgate aveva un aroma delicato, si comportava con stile, parlava con un buon accento ed era in stretti rapporti con Sir Godwin. Rosamond la trovò del tutto gradevole e ne raccolse molte espressioni. Perciò, dato che Rosamond, come sappiamo, amava andare a cavallo, vi erano moltissime ragioni perché fosse tentata di riprendere a cavalcare, allorché il capitano Lydgate, che aveva ordinato al suo attendente di seguirlo con due cavalli e prendere alloggio al Green Dragon, la pregò di uscire sul bigio che egli garantiva essere buono e addestrato per portare una signora. Infatti l'aveva comprato per la sorella e lo aveva portato a Quellinga. Rosamond la prima volta uscì senza dirlo al marito e rincasò prima che egli tornasse, ma la cavalcata era stato un successo così completo e le dichiarò di stare tanto meglio grazie ad essa che egli ne fu informato con la piena fiducia che avrebbe consentito che si recasse a cavalcare ancora. Al contrario, Lydgate fu più che ferito, rimase completamente disorientato dal fatto che avesse rischiato la propria vita su un cavallo estraneo senza chiedere il suo parere in proposito. Dopo le prime, quasi tonanti esclamazioni di stupore, che per Rosamond furono sufficiente avvertimento di ciò che era in arrivo, egli rimase muto per alcuni momenti. Comunque sei tornata a casa sana e salva, egli disse infine con un tono deciso. Non ci andrai di nuovo, Rosie, questo è scontato. Se anche fosse il cavallo più tranquillo, più familiare del mondo, ci sarebbe sempre il pericolo di un incidente. E sai molto bene che ho voluto che rinunciassi a cavalcare il roano per questo motivo. Ma il rischio di un incidente c'è anche in casa, Tertius. Mia cara, non dire stupidaggini, disse Lydgate in tono implorante. Io sono certamente la persona che può giudicare per te. Penso che sia sufficiente che io dica che non devi ritornarci. Rosamond si stava sistemando i capelli prima di cena e il riflesso della sua testa nello specchio non mostrava alcun mutamento della sua bellezza, tranne il lungo collo lievemente girato. Lydgate camminava in su e in giù con le mani in tasca e ora si fermò accanto a lei, come se attendesse una qualche assicurazione. «Vorrei che mi fissassi le trecce, caro», disse Rosamond, lasciandosi cadere le braccia con un piccolo sospiro, così da indurre un marito a vergognarsi di starsene lì come una bestia. Lydgate le aveva spesso fissato le trecce in precedenza, poiché era uno degli uomini più abili con le sue dita ben modellate. Egli raccolse i teneri festoni delle trecce e li fermò con l'alto pettine. A simili usi vengono adibiti gli uomini. E allora cosa poté fare se non baciare la squisita nuca che apparve in tutte le sue curve delicate? Ma quando facciamo ciò che abbiamo fatto altre volte, spesso avvertiamo una differenza. Lydgate era ancora adirato e non aveva dimenticato quello che pretendeva. Dirò al capitano che avrebbe dovuto pensare a qualcosa di meglio che offrirti il suo cavallo, disse mentre si allontanava. Ti prego di non fare nulla del genere, Tertius, disse Rosamond, guardando con qualcosa di più marcato del solito nelle proprie parole. Equivarrebbe a trattarmi come se fossi una bambina. Promettimi che lascerai fare a me. Sembrava che nella sua obiezione ci fosse una certa verità. Lydgate disse: Molto bene, obbedendo scontrosamente, e così la discussione terminò con una sua promessa a Rosamond e non viceversa. In effetti Rosamond era stata ben decisa a non promettere, aveva quell'ostinazione vittoriosa che non sciupa mai le proprie energie in un'impetuosa resistenza. Ciò che le andava di fare per lei era la cosa giusta e tutta la sua intelligenza era impegnata nel procurarsi i mezzi per compierla. Aveva intenzione di tornare fuori a fare un'altra cavalcata sul Bigio e ci andò veramente quando si presentò l'occasione successiva di un'assenza del marito, riproponendosi che egli non lo sapesse finché non fosse passato abbastanza tempo da non avere più alcuna conseguenza per lei. La tentazione era certamente grossa, amava molto quell'attività sportiva e la gratificazione di andare su un bel cavallo assieme al capitano Lydgate, su un altro bel cavallo al suo fianco e di venire incontrata in questa situazione da tutti tranne il marito. Era qualcosa di bello come i suoi sogni anteriori al matrimonio. Inoltre, ribadiva il rapporto con la famiglia di Quellingham, il che doveva essere saggio fare. Ma il gentile Bigio, non preparato alla caduta di un albero, che si stava battendo ai margini del bosco di Alsel, si impaurì e provocò una paura maggiore in Rosamond, che finì per portarla alla perdita del bambino. Lydgate non poteva mostrarsi adirato con lei, ma fu piuttosto rude col capitano, la cui visita, come naturale, giunse ben presto al termine. In tutte le conversazioni successive sull'argomento, Rosamond si mostrò dolcemente certa che la cavalcata non aveva fatto alcuna differenza e che se fosse restata a casa, gli stessi sintomi si sarebbero presentati e avrebbero avuto la medesima conclusione, perché aveva sentito qualcosa del genere in precedenza. Lydgate poteva solo dire: Povera, povera cara, ma in cuor suo si stupiva della terribile tenacia di questa mite creatura. Entro di lui andava aumentando un senso stupido della propria impotenza su Rosamond. Le sue conseguenze e capacità mentali superiori, invece di essere come aveva immaginato un santuario da consultare in ogni occasione, venivano semplicemente ignorate per ogni questione di carattere pratico. Aveva considerato l'intelligenza di Rosamond precisamente di quel carattere ricettivo che si addice a una donna. Ora cominciava a scoprire cosa fosse quell'intelligenza, quale fosse la forma che aveva assunto, come uno stretto intreccio solitario e indipendente. Nessuno era più rapido di Rosamond nel vedere cause ed effetti che fossero sul sentiero dei propri gusti e dei propri interessi. Aveva visto chiaramente la superiorità di Lydgate nella società di Middlemarch e poteva continuare con la fantasia a scoprire effetti sociali ancor più gradevoli quando il suo talento l'avrebbe fatto progredire. Ma per lei, la sua ambizione professionale e scientifica non avevano altro rapporto con questi effetti desiderabili, più di quanto ne avrebbe avuto se si fosse trattato della scoperta di un olio puzzolente. E a parte quell'olio, col quale lei non aveva nulla a che fare, naturalmente credeva di più nella propria opinione che in quella di lui. Lydgate rimase sbalordito nello scoprire in innumerevoli faccende banali, oltre che in quest'ultimo caso serio della cavalcata, che l'effetto non la rendeva flessibile. Egli non aveva dubbi che l'effetto ci fosse e non aveva alcun presentimento di aver fatto alcunché per respingerlo. Per parte sua, si disse che l'amava con la tenerezza di sempre e poteva rassegnarsi ai suoi difetti, ma beh, Lydgate era assai preoccupato e si rendeva conto che nella sua vita erano entrati nuovi elementi a lui nocivi, come un'insenatura fangosa per una creatura abituata a respirare, bagnarsi e guizzare dietro alla sua preda luminosa nelle acque più chiare. Rosamond, ben presto, riassunse un aspetto più bello che mai al suo tavolo da lavoro, divertendosi a uscire nel phaeton di suo padre e pensando che ci fosse la probabilità di essere invitata a Quellingham. Sapeva di essere un abbellimento assai più squisito per quel salotto di qualsiasi figlia della famiglia, e nel riflettere che gli uomini erano consapevoli di questo, forse non considerò a sufficienza se le signore avrebbero gradito di vedersi sorpassate. Lydgate, sgravato dall'ansia per la salute della moglie, ricadde in ciò che lei dentro di sé chiamava il suo umor nero, una parola che per lei comprendeva la pensierosa preoccupazione di argomenti diversi da se stessa, oltre a quell'aspetto turbato della fronte e a quell'antipatia per tutte le cose ordinarie come se fossero miste ad erbe amare, il che costituiva davvero una sorta di barometro della sua irritazione e dei suoi presentimenti. Queste ultime condizioni di spirito avevano una causa, fra le altre, di cui egli aveva generosamente, anche se a torto, evitato di mettere a parte Rosamond, perché non incidessero sulla sua salute e sul suo umore. Fra di loro, infatti, c'era una totale ignoranza dei pensieri reciproci, che è troppo palesemente possibile anche fra persone che pensano continuamente l'una all'altra. A Lydgate sembrava di aver dedicato un mese dopo l'altro a sacrificare più di metà delle sue migliori intenzioni e delle migliori forze per essere tenero con Rosamond, sopportando senza impazienza le sue piccole esigenze e interruzioni, e soprattutto sopportando, senza tradire alcuna amarezza, di guardare attraverso un'illusione sempre più esile la superficie vuota e opaca che la mente di lei presentava al suo ardore per gli scopi più impersonali della sua professione e del suo studio scientifico. Un ardore che, secondo la sua immaginazione, la moglie ideale doveva in qualche modo venerare come sublime, pur senza conoscerne minimamente il perché. Ma la sua sopportazione era mista a una scontentezza di sé, che se sappiamo essere sinceri, confesseremo che costituisce più di metà della nostra amarezza per le lagnanze, moglie o marito inclusi. Resta sempre vero che se fossimo stati più forti, le circostanze sarebbero state meno avverse. Lydgate era consapevole che le proprie concessioni a Rosamond erano spesso poco più dello sbandamento di una risolutezza diminuita. La paralisi strisciante portata ad afferrare un entusiasmo che non è in regola con una parte costante della nostra vita. E l'entusiasmo di Lydgate era costantemente gravato non da un semplice peso di tristezza, ma dalla presenza caustica di una meschina preoccupazione umiliante, di quelle che gettano il pernicioso influsso dell'ironia su tutti gli sforzi più elevati. Questa era la preoccupazione che egli si era finora astenuto dal comunicare a Rosamond e credeva con un certo stupore che lei non si fosse mai accorta di nulla, sebbene certo nessuna difficoltà poteva essere meno misteriosa. Era una facile deduzione e tratta da osservatori indifferenti che Lydgate aveva dei debiti ed egli non poteva riuscire ad ignorare a lungo di sprofondare sempre di più in quella palude che attira gli uomini verso di sé con una tale graziosa copertura di fiori di verde. È stupefacente in quanto poco tempo un uomo vi affonda fino al mento in una condizione in cui, a dispetto di se stesso, il suo pensiero è soprattutto quello di liberarsi, anche se avesse un'idea dell'universo in mente. 18 mesi prima Lydgate era povero, ma non aveva mai conosciuto l'irritante mancanza di piccole somme. Anzi, provava un cocente disprezzo per chiunque discendeva di un gradino per guadagnarle. Ora stava subendo qualcosa di peggio di un semplice deficit. Era assalito dalle volgari, odiose sofferenze di un uomo che ha comprato e usato molte cose di cui avrebbe potuto fare a meno e che non è in grado di pagare, per quanto le richieste di pagamento siano divenute pressanti. Come si giungesse a questo lo si può vedere facilmente senza molta aritmetica conoscenza di prezzi. Quando un uomo nel mettere su casa, nel prepararsi al matrimonio, trova che i mobili e le altre spese iniziali giungano a una cifra oscillante fra le 4 e le 500 sterline in più dei contanti che ha a disposizione, quando al termine di un anno è evidente che le sue spese domestiche, cavalli e altro, ammontano a quasi 1000 sterline, mentre le entrate delle attività, che dai vecchi libri risultavano del valore di 800 sterline l'anno, sono calate come un laghetto d'estate e raggiungono a malapena le 500 sterline, consistenti soprattutto in parcelle non pagate. La chiara deduzione è che gli importi o no si trova indebitato. Quelli erano tempi meno dispendiosi dei nostri e la vita provinciale era relativamente modesta. Ma la facilità con cui un medico che aveva di recente comprato una clientela che pensava di essere obbligato a tenere due cavalli, la cui tavola era fornita senza limitazione, che pagava un'assicurazione sulla vita e un affitto elevato per la casa e il giardino, si potesse trovare con le spese al doppio delle entrate. La puoi immaginare chiunque non consideri questi dettagli indegni della propria considerazione. Rosamond, abituata sin dall'infanzia a un andamento domestico dispendioso, pensava che una buona amministrazione della casa consistesse semplicemente nell'ordinare il meglio di tutto. Null'altro rispondeva a quel fine. E Lydgate pensava che se si faceva una cosa, questa si doveva fare nel modo appropriato. Egli non vedeva come dovessero vivere altrimenti. Se ciascun capitolo delle spese domestiche gli fosse stato citato in anticipo, probabilmente avrebbe osservato che l'ammontare non sarebbe certo stato alto. E se qualcuno gli avesse suggerito di risparmiare su un particolare articolo, per esempio di sostituire con del pesce dal prezzo modico quello costoso, gli sarebbe semplicemente apparsa un'idea spiloccia e meschina. Rosamond, anche senza un'occasione come quella della visita del capitano Lydgate, andava pazza per invitare gente e Lydgate, sebbene spesso trovasse gli ospiti noiosi, non interferiva. L'intrattenimento dei rapporti sociali sembrava una parte necessaria della sua professione e il divertimento doveva essere adatto. Vero è che Lydgate visitava costantemente le case dei poveri e adeguava le prescrizioni di dieta ai loro esigui mezzi. Ma, Dio mio, non ha forse ormai cessato di essere una cosa eccezionale? Non è piuttosto quello che ci aspettiamo dagli uomini che abbiano numerosi tipi di esperienze l'una accanto all'altra e che non le paragonino fra di loro? Le spese, come la bruttezza e gli errori, divengono una cosa totalmente nuova quando leghiamo ad esse la nostra personalità e le misuriamo con quell'ampia differenza che è manifesta ai nostri sensi fra noi e gli altri. Lydgate si considerava incurante nel mestiere e disprezzava un uomo che calcolasse gli effetti prodotti dai propri abiti. Gli sembrava solo una cosa normale avere abiti nuovi in abbondanza. Tali cose si ordinavano naturalmente a mucchi. Si deve ricordare che finora non aveva mai sentito il freno del debito fastidioso e andava avanti per forza di abitudine, non per autocritica. Ma il freno era arrivato. La sua novità lo rendeva ancora più irritante. Egli rimase sorpreso, disgustato dal fatto che delle circostanze così estranee a tutti i suoi scopi, così odiosamente prive di ogni rapporto con gli oggetti di cui gli importava occuparsi, gli avessero teso un'imboscata e lo avessero afferrato a sua insaputa. E non c'erano solo i debiti del momento, c'era la certezza che nella sua attuale posizione avrebbe potuto continuare ad accrescerli. Due commercianti di nobili di Bressing con cui aveva contratto dei debiti prima di sposarsi e che le spese correnti non previste gli avevano sempre impedito di pagare, gli avevano ripetutamente inviato delle lettere sgradevoli che si erano imposte alla sua attenzione. Questo avrebbe difficilmente potuto essere più irritante per qualsiasi temperamento che non fosse quello di Lydgate, col suo intenso orgoglio. La sua avversione a chiedere un favore o a essere in obbligo verso chiunque. Aveva disegnato persino di fare delle congetture sulle intenzioni di Mr. Vincey riguardo a delle faccende finanziarie e nulla, se non un estremo bisogno, avrebbe potuto indurlo a ricorrere al suocero, anche se non fosse stato messo al corrente in vari modi indiretti da quando si era sposato che le condizioni dello stesso Mr. Vincey non erano floride e che la richiesta di un aiuto da parte sua sarebbe stata accolta male. Certuni si fidano facilmente delle disponibilità dei parenti. A Lydgate non era mai accaduto in vita sua di avere bisogno di fare questo. Non aveva mai pensato cosa avrebbe significato per lui prendere a prestito. Ma ora che l'idea gli era entrata in capo, pensò che avrebbe preferito affrontare qualsiasi altro sacrificio. Intanto non aveva soldi, né prospettive di guadagnarne, e la sua attività non stava diventando più lucrativa. Non c'è da stupirsi se Lydgate non era riuscito a soffocare ogni segno di tormento interiore durante gli ultimi mesi e ora che Rosamond stava recuperando un'ottima salute, egli meditava di metterla del tutto al corrente delle proprie difficoltà. Una nuova familiarità con i conti dei fornitori aveva spinto il suo raziocinio a un nuovo indirizzo di paragone. Aveva cominciato a considerare da un nuovo punto di vista ciò che era necessario e ciò che non lo era nelle merci ordinate e a capire che doveva in qualche modo cambiare abitudini. Come si poteva effettuare un simile mutamento senza la cooperazione di Rosamond? Fu obbligato a rivelarle il fatto sgradevole da un'occasione impellente. Non avendo soldi e avendo confidenzialmente cercato consigli su quale garanzia avrebbe potuto dare una persona nella sua posizione, Lydgate aveva offerto l'unica garanzia a sua disposizione al creditore meno perentorio, che era un orafo e gioielliere, il quale acconsentì ad assumersi anche il credito del tappezziere, accettando gli interessi per un determinato periodo. La garanzia necessaria era un atto di vendita del mobilio della sua casa, che avrebbe potuto tranquillizzare un creditore per un ragionevole periodo di tempo, di fronte a un debito che ammontava a meno di 400 sterline. E l'orafo, Mr. Dower, era disposto a ridurlo, ripigliandosi una parte dell'argenteria e qualsiasi altro articolo che fosse come nuovo. Qualsiasi altro articolo era un'espressione che si riferiva con delicatezza ai gioielli e in modo più particolare ad alcune ametiste rosse del costo di 30 sterline che Lydgate aveva acquistato come dono di nozze. Si può essere discordi riguardo al buon senso di un simile regalo. Certuni possono pensare che fosse una graziosa attenzione degna di un uomo come Lydgate e che la colpa di qualsiasi spiacevole conseguenza era da attribuire alle ristrettezze della vita provinciale del tempo, che non offriva agio ai professionisti, la cui fortuna non era proporzionata ai loro gusti. Nello stesso tempo era da attribuire anche alla ridicola ostinazione di Lydgate a non volere chiedere denaro ai parenti. Tuttavia gli era sembrato una questione di nessuna importanza quella bella mattina in cui era andato ad ordinare gli ultimi pezzi dell'argento. Alla presenza di altri gioielli enormemente costosi ed in aggiunta ad ordinazioni il cui ammontare non era stato esattamente calcolato, 30 sterline per degli ornamenti così squisitamente adatti al collo e alle braccia di Rosamond potevano difficilmente sembrare eccessive quando non c'era la necessità di pagare in contanti. Ma in questo momento di crisi, l'immaginazione di Lydgate non poté fare a meno di soffermarsi sulla possibilità di lasciare che le ametiste riprendessero il loro posto nel magazzino di Mr. Dover, per quanto rifuggisse dall'idea di proporre la cosa a Rosamond. Essendo stato spinto a scorgere le conseguenze che non era mai stato abituato a prendere in considerazione, si stava preparando ad agire in base a questa consapevolezza con un po' del rigore. Non diremo tutto, che avrebbe applicato nel condurre un esperimento. Si stava incoraggiando a questo rigore mentre usciva da Bressing e meditava sulle spiegazioni che doveva dare a Rosamond.